diletta, dimmi tu che cosa gli è, damigella amorosetta, sento certo non so che mi pizzica e diletta, dimmi tu che cosa gli è, damigella amorosetta, ti farei, ti direi, ti direi, ti farei, ma non so quel che io vorrei, ma non so quel che io vorrei. Ecco il cor mio, se tu parti io sto malenso, al tuo sen divino latte, sempre aspiro e sempre penso, ti farei, ti direi, ti direi, ti farei, ma non so quel che io vorrei, ma non so quel che io vorrei. Thank you. musica.